Down, I'll give an advice. distorsione. Thank you. Bimbau, cabaça, arau. Bimbau, passa, cabaça, bimbau, cabaça, arau, bimbau. pau, acabaça, arau, pim, pau, passa, cabaça, pim, pau, acabaça, arau, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, pim, pau, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, passa, cabaça, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, pim, pau, paca, paca, paca, paca, paca, paca, paca, pim, pau, pau, pau, pim, pau, passa, cabaça, pim, pau, cabaça, arau. We'll be right back.

We'll be right back.